Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna, nonché naturalmente la app che potete scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it, rigorosamente senza accento, e che vi darà modo di ascoltare la vostra radio preferita, si dice così, i professionisti dicono così, in tutto il mondo. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 vi propone musica dal vivo, musica registrata dal vivo di ogni epoca e di ogni genere, e che come sempre comincia con una novità. Anche oggi non fa eccezione, stavo facendo una gaffa dicendo cover, ma dopo capirete perché. La novità di oggi è una cosa di archeologia musicale, infatti andiamo direttamente al 1975 in concerto. In questo caso abbiamo una band che prendeva il nome da tre dei componenti, si chiamava Bucker Garvitz Army. Infatti i fratelli Adrian, che sono alla chitarra e cante, Paul, bassista e cantante anch'egli, Gurvis, il loro nome, si unirono a Ginger Baker, che credo, spero, non abbia bisogno di presentazioni, e formarono questa Baker Garvitz Army, che tutto questo nel 1974. La cosa non durò molto, un paio d'anni, giusto il tempo per fare tre album in studio e uno dal vivo durante, diciamo, la loro esistenza normale. Dopodiché sono stati pubblicati tre ulteriori album live, l'ultimo dei quali è quello che vi presento oggi, che si chiama semplicemente Live 1975 o 1975, come volete. C'è da dire che oltre ai fratelli Garvitz e a Ginger Baker erano della partita anche un tale Mr. Snips, il cantante, e Pete Limer alle tastiere. Il quintetto, come dicevo, ha fatto diversi, anzi una band che si basava principalmente sui concerti, per cui gli album live che sono stati pubblicati ne documentano appieno. In questo album, che si chiama, lo ripeto, Live 1975, ci sono sette canzoni che sono state registrate alla Reading University il 15 febbraio del 1975 e quattro canzoni invece che arrivano dalla Victoria Theatre di Londra alla fine di quell'anno, il 2 novembre del 1975. Quasi tutti i brani sono scritti dai due fratelli Garvitz, ma la band, lo ripeto, Bucker Garvitz Army, non lesinava con le covers. E infatti, da qui arrivava il mio inceppo all'inizio della trasmissione, e infatti ci andiamo subito ad ascoltare una cover. E che cover? Un brano di Jimi Hendrix che si chiama Freedom. I won't get out of here alive. Freedom, that's what I need. Freedom, so I can leave. Freedom, that's what I need. Freedom. Chiamavano Baker Gurwitz Army, una band che ha vissuto un paio d'anni solamente senza lasciare grandi tracce, a dire il vero, ma che comunque aveva un certo valore, soprattutto per quel che riguardava i concerti live. Questa era una cover, come vi dicevo, un classico di Jimi Hendrix, che praticamente nella sua carriera ha fatto solo classici, e si chiama Freedom, e mi dà l'opportunità in questa prima parte della trasmissione di farvi ascoltare brani di Jimi Hendrix fatti da altri musicisti, altri artisti, altre bands. Credo di non aver bisogno di dire chi sia Jimi Hendrix, chi fosse, anzi purtroppo Jimi Hendrix. Dirò solamente che nel corso della sua vita breve ha fatto solamente 3 album in studio, 2 nel 1967 e uno nel 1968. Poi, se volete aggiungere anche live con la Band of Gypsies, diventano 4 album in tutto. Sarebbe uscito un altro ufficiale che si chiama Cry of Love, che stava preparando, ma poi morì e non se ne fece niente. È stato poi pubblicato postumo. Ma andiamo ad altre cose, andiamo alle covers che vi dicevo appunto, e iniziamo con un paio di cose italiane, di cui una abbastanza particolare. Quella particolare è quella con cui iniziamo, una gentile signora che si chiama Maria Pia De Vito, è una cantante jazz che arriva da Napoli ed è attiva praticamente dalla metà del 1970. Come quasi tutti i jazzisti ha fatto tantissime collaborazioni e alcuni album solisti a suo nome. Il suo target, diciamo così, è mescolare la tradizione napoletana con la musica jazz. Non sempre ci riesce, qualche volta un po' meglio, ma diciamo che non è una cosa eccezionale per quello che mi riguarda. Comunque, alcuni anni fa, esattamente nel 2007, Repubblica ed il settimanale L'Espresso, con i propri numeri una volta alla settimana, davano la possibilità di acquistare a un prezzo consono una serie che si chiamava Jazz Italiano Live 2007. È stata secondo me una serie molto positiva, molto interessante, perché ha dato modo anche a chi vi sta parlando di conoscere artisti che altrimenti non avrebbe mai conosciuto, tipo appunto Maria De Vito. E l'album si chiama Songs from the Underground, special guest Francesco Cafisio. Francesco Cafisio è un sassofonista siciliano molto molto quotato. Il tutto è stato registrato alla Casa del Jazz di Roma il 18 gennaio del 2007. Il brano che ci andiamo ad ascoltare viene dal secondo album di Jimi Hendrix, che si chiama tuttora Axis Bold as Love, e il pezzo si chiama Up from the Sky, Maria Pia De Vito. Just wanna talk to you, I won't do you no harm. I just wanna know about your different lives on these here people. I heard some of you got your families living in cages, tall and cold, and some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Ooh, do I see a vacuum there? Or am I going blind? Or is it just remains of vibrations and echoes long ago? Ooh, things like love the world. And ooh, let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Is this true? Please let me talk to you. I have lived here before, the days of eyes, and of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars misplaced and a smell of a world that is burned. And a smell of a world that is burned. Change of climate. Ooh. Yeah, I can dig it. Well, I can dig it, baby. this room. Please let me talk to you. Is this true? Please let me talk to you. So where do I purchase my ticket? I'd just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Oh, I wanna hear and sing everything. I wanna hear and see everything. Everything. Everything. Everything. Yeah. I wanna hear and see everything. Thank you. una delle migliori band italiane in assoluto, anche se in realtà essendo un duo non so se sia proprio corretto chiamarla band. Comunque Adriano Viterbini alla chitarra e voce, Cesare Petulicchio alla batteria, formano questi Bud Spencer Blues Explosion che sono assolutamente fenomenali. Loro hanno fatto 6 album in studio, più un fra cui l'ultimo che è uscito sul finire del 2023, che si chiama Next Big Niente, mentre questo Fuoco Lento Live EP, già nel nome dice che non è un album completo, ma purtroppo è solamente un estratto dal concerto del 14 marzo del 2011 che la band tenne al Circolo degli Artisti di Roma e che è stato immortalato appunto in questo extended play. Voodoo Child che ci siamo ascoltati, un super super classico di Jimi Hendrix, ma come vi dicevo lui ha praticamente pubblicato solamente grandi classici, arriva da un doppio album che si chiama Electric Ladyland, che era il terzo e ultimo e anche l'unico doppio della carriera del grande mancino di Seattle, come si dovrebbe dire. Ci sono anche degli insospettabili che hanno fatto covers di Jimi Hendrix, una band che viene dalla Scozia, è stata attiva dal 1985 al 1995 e poi si è riformata nel 2023, ma non si sa se attualmente sia ancora viva e vegeta o cosa stiano facendo. Questi Soap Dragons hanno fatto durante la loro carriera 4 album, tutti nella prima parte, cioè quella dall'85 al 95, alcuni extended play, fra cui questo che si chiama Live EP Can't Take No More, è stato registrato alla ULU, che sarebbe la University of London Unions, l'unione degli studenti dell'Università di Londra, nel febbraio del 1987. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è una cosa un po' particolare, nel senso che è tratto dall'album Are You Experienced, ma se avete in casa la versione britannica non c'è questo brano, c'è solo nella versione americana. Il pezzo si chiama Purple Haze. We done this supporting Love at the Roxy back in 67, you might remember it. We'll be right back. passion is a touching my soul. I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling, sweet feeling, drops from my fingers. Manic depression has captured my soul. Music, sweet music, I wish I could caress, caress. Manic depression is a frustrating mess. Yes, give me some. Yes, I tell you, folks. Sul finire degli anni 60 del secolo scorso c'erano in giro per gli Stati Uniti un paio di bands che cercavano di coniugare il jazz con la musica moderna, chiamiamola così. No, c'erano i Chicago che cercavano di mescolare il jazz con il rock, e c'erano questi Blood, Sweat and Tears che invece erano più orientati a mescolare il jazz con il blues. In entrambi i casi erano due big band con tanto di fiati, l'avete sentito. Questi Blood, Sweat and Tears furono fondati nel 1967 da Earl Cooper, il tastierista famosissimo per essere stato colui che suona l'organo in Like Rolling Stone di Bob Dylan, e sono attivi fino ad oggi, anche se naturalmente, come spesso accade, non c'è nessun membro originale che possa dire di aver partecipato all'album d'esordio di questi Blood, Sweat & Tears. Live, che è quello che ci siamo ascoltati, invece è stato registrato allo Street Scene di Los Angeles, in California naturalmente, il 12 ottobre del 1980, e questo brano, che si chiama Manic Depression, arriva dal primo album, l'album d'esordio di Jimi Hendrix, che si chiama Are You Experienced? Sir Roderick David Stewart, per noi semplicemente Rod Stewart, viene da Highgate, London, da tantissimi anni sulle scene, ma non ha la capacità di scrivere tante canzoni, grandi canzoni, a parte Maggie May e poche altre, e quindi si circonda, diciamo così, fonda il suo repertorio principalmente su covers, e naturalmente non poteva mancare Jimi Hendrix. Qui abbiamo il nostro Rodney, che è tratto da un quadruplo CD box set molto molto molto bello, che si chiama Live 1976-1998, quindi sarebbe già il tempo di proporre quello dal 1998 ad oggi. Comunque, fra le meraviglie di questo box c'è una versione di Angel di Jimi Hendrix, naturalmente, che è stata pubblicata nell'album Cry of Love, del quale vi parlavo prima, l'album postumo ufficiale uscito pochi mesi dopo la morte di Jimi Hendrix. Il tutto da parte di Rod Stewart è stato registrato alla Granby Halls di Leicester, in Gran Bretagna naturalmente, il 5 dicembre del 1976. Siamo con Mr. Rod Stewart. You and me will fly away on a brand new day. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Angel! sometime, sometime soon, we're gonna fly away. We're gonna fly away. We're gonna fly away. is running round. Super accoppiata a concludere la prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi. Prima Sir Rod Stewart con la sua Angel e poi è arrivata la Tedeschi Trucks Band, grandissima band che è stata fondata nel 2010 dai coniugi Susan Tedeschi e Derek Trucks. Ognuno aveva la propria carriera ma poi si sono uniti per dare vita a questo super super ensemble. C'è una piccola premessa da fare per questo brano, perché il 9 novembre del 1970 uscì uno dei più belli album della storia, si chiama Lila and Other Assorted Love Songs, album unico di Derek and Dominos, unico album in studio, nell'agosto del 2019 la Tedeschi Trucks Band fu invitata al Lock Music Festival ad Arrington in Virginia e loro decisero di fare per intero questo album. Già nei concerti normalmente facevano diverse covers tratte da questo doppio album e lì decisero di farlo tutto intero. C'era un solo problema: Derek and the Dominos, l'album in studio vedeva due grandissimi chitarristi all'unisono, Eric Clapton e Duane Allman, e nella Tedeschi Trucks Band c'è solo un chitarrista, Derek Trucks naturalmente, e qui un chitarrista solista, diciamo così. Susan Tedeschi è una chitarrista ritmica che ogni tanto si dà al solismo, ma serviva uno che ne sapesse, diciamo così. E si guardarono un po' intorno i ragazzi e la loro scelta cadde su Mr. Trey Anastasio, che è il chitarrista dei Fish, che è uno dei chitarristi migliori in assoluto sulla scena musicale ormai da diversi anni. Quindi questo album, che si chiama semplicemente Lila Revisited, è stato accreditato a Tedeschi Trucks Band e featuring Trey Anastasio. Il brano, che è un brano tratto da Axis Bulldoze Love, si chiama Little Wing, ma questo penso che lo sappiate già. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, naturalmente da Radio Città Fujiko in Bologna, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica. Seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi, novità che però ha quasi un cinquantello sulle spalle, essendo stata registrata nel 1975, nel febbraio del 1975, e pubblicata nel novembre dello scorso anno. Bucker Garvitz Army è il nome di questa band, formata dai due fratelli Garvitz, chitarra e basso, e Ginger Baker, batterista eccelso. Pochi album, alcuni usciti postumi, fra cui questo che vi ho proposto, che vi propongo quest'oggi come novità. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama The Gambler, è stato registrato al Reading University il 15 febbraio del 1975. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, la rubrica che vi fa ascoltare i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, 10 aprile, nel trascorrere degli anni. E anche quest'oggi tantissime cose, anche quest'oggi a costo di essere tedioso, vi dirò che il criterio di scelta è di un brano per ogni decade. Ce ne sono tantissimi, per cui andiamo subito ad iniziare dal 1968. In concerto alla City Hall di New York City abbiamo un grandissimo, grandissimo personaggio che però è un po' misconosciuto, nel senso che ha avuto un grande momento con una serie di brani scritti da lui che sono stati coverizzati, brutto termine, ma sicuramente rende l'idea, da diversi artisti. Ne cito solamente tre: Hang On A Dream, che è stato poi registrato anche live dai Nice; Reason To Believe, è stato registrato da tantissimi musicisti, e come pure If I Were A Carpenter, forse il suo brano più famoso. Lui purtroppo è morto di overdose nel 1980 all'età giovanissima di 39 anni, però ha fatto in tempo a registrare questo concerto alla Town Hall appunto di New York City nel 1968. Lui si chiama Tim Hardin, per la precisione James Timothy Hardin, e veniva da Eugene nell'Oregon. Una grande voce e una grande capacità di mescolare folk, jazz e blues. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano si chiama Last Sweet Woman, era il 10 aprile del 1968, Tim Hardin. Sweet moments of a childhood sleep, I gaze briefly on what my dream could keep. And then childlike hope, I wish to dream long, climb a rope. Found my into the dream till I'd almost join what I'd see. But then I woke, I took the room. Took the room out of the sky. L'ultimo momento dolce, Last Sweet Moment, Tim Hardin Live, l'album si chiama semplicemente Live in Concert ed è stato registrato alla Town Hall di New York City il 10 aprile del 1968, Last Sweet Moment. E a proposito di personaggi caduti più o meno nel dimenticatoio, Brian Auger, tastierista eccelso, è uno di quelli. Lui arriva da Londra ed è attivo fin dagli anni 60, prima con gli Steam Packet, band che vedeva la voce Cyril Stewart, che ci siamo ascoltati prima, e anche Julie Driscoll, che poi, con la quale poi avrebbe formato una band che si chiama Trinity. Nel 1970 invece sciolse questi Trinity e formò il proprio Oblivion Express, che è stata la culla di un sacco di musicisti molto importanti, fra cui alcuni dei membri fondatori della Average White Band. Uscirono due album live all'epoca che si chiamano Live Oblivion Volume 1 naturalmente e Live Oblivion Volume 2. Uscirono uno nel 74, un altro nel 76, ma sono stati registrati tutti a Whisky a Go Go nel 1974, appunto il 10 aprile. Il pezzo che ho scelto per voi, più o meno forzatamente a causa del tempo, Freedom Jazz Dance, Brian Auger's Oblivion Express, era il 1974. Straight ahead. Especially for B. And P. Alex. E naturalmente la cosiddetta sindrome di Nevio ha colpito ancora quando sono indeciso fra due brani da trasmettere, ne annuncio uno e trasmetto l'altro. È una cosa bipolaristica, non lo so. Il brano che vi avevo annunciato non è Freedom Jazz Dance, ma è Straight Ahead, come ha detto lo stesso Brian Auger, che insieme ai suoi Oblivion Express provavano a mescolare jazz, rock, blues, un po' di tutto, ma hanno avuto un discreto successo all'epoca, sto parlando dei primi anni 70, ma poi sono sciolti e Brian Auger ha continuato come session man. Il brano viene dal secondo volume dei Live Oblivion, che è stato pubblicato nel 76 con questa registrazione del 10 aprile del 1974. Two, what? Vengono da Chicago, si chiamano Styx tuttora, sono attivi dal 1972 e sono rimasti solo due membri originali, James Young, chitarrista e cantante, e Chuck Panozzo, bassista e voce, però il buon Chuck non va in tour con la band, partecipa solo alle incisioni in studio perché è ammalato di HIV, detto all'italiana. Hanno fatto un sacco di live album, questo Coating the Act è il primo, è stato registrato al Singer Theater di New Orleans, Louisiana, nel 1983, naturalmente 10 aprile, il brano lo presenta lo stesso James Young. To the Paradise Theater! qualche problema con il lettore CD, adesso vediamo se riusciamo a sistemarlo in un modo o nell'altro. Doveva partire un pezzo, come quasi sempre, anzi sempre succede dopo la pubblicità, sembrava che andasse tutto per il meglio, ma invece c'è stato qualche problema. Vediamo adesso che cosa ci dice. Sta leggendo il CD, non lo sta leggendo, non si sa bene quello che succede, eccolo qua. It's called Nowhere. Direi che malgrado tutto c'è veramente qualche problema con la lettura di questo CD, che è un promo di oramai tanti anni fa da parte di una band che si chiama Ride, band che ha avuto un grande successo in Gran Bretagna dal 1988 al 1996, dopodiché si sciolse e si è riformata nel 2014 fino ad oggi. Dopo lo scioglimento, durante il periodo di scioglimento per meglio dire, Andy Bell, che è chitarrista e cantante della band, si unì agli Oasis come bassista, però. E mi dispiace molto perché questo brano, secondo me, è molto intrigante. Si chiama Nowhere ed è stato registrato al Roxy di Los Angeles il 10 aprile del 1991. E infatti, come un buon vinile salta, ma invece è un CD. Comunque andiamo avanti, arriviamo negli anni 2000 insieme a una band che credo sia assolutamente sconosciuta ai più. Si chiamano Silos, sono la band di un cantante chitarrista e lui il leader, si chiama Walter Salas Humora. È lui che l'ha fondata nel 1985, è lui che decide chi suona con lui, insomma è un po' despotico, diciamo. Ma comunque questi Silos sono una di quelle band che vi ho già fatto ascoltare diverse volte, che sono magari più famosi in Europa che negli Stati Uniti, che è la loro madre patria. E infatti non a caso quest'album è registrato per una casa discografica tedesca, si chiama Return to Sender. Ce ne sono diverse di case discografiche tedesche che pubblicano album di artisti americani, quasi sempre dal vivo, quasi sempre registrati in Germania. Questo invece è registrato in Spagna, infatti l'album si chiama semplicemente Barcelona ed è una registrazione che è stata effettuata alla Sala Celeste della città spagnola. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Miles Away, loro si chiamano Silos, era il 10 aprile dell'anno di grazia 2000. Ok, te vamos a tocar una que tiene que ver con un hombre y una mujer que están juntos ya hace muchos años. Una conversación muy común. Say warning to me. Something by the way that you smile is a warning to me. I just can't seem to get through to you, no matter how hard I try. I just can't seem to get through to you, and I don't know why. Don't know why you are miles away. Miles away. Miles away. Miles away. How can we go on not talking? How can we go on? How can we go on just laughing and smiling and nothing, nothing at all? There's nothing at all. There's nothing at all. You are miles away. something by the way that you smile. It's a warning to me. Something about the way that we laugh at each other is giving us, is giving us away. Cause there's nothing at all if we don't stop talking soon. We are miles away, miles. Onestamente non ho mai appurato se la pronuncia sia Silos o Silos, comunque fatto sta che è la band di Walter Salles Humora ed è la band che il 10 aprile del 2000 ha registrato alla Sala dell'Est di Barcellona questo omonimo album e il brano in particolare che si chiama Miles Away. Ben più famoso sia dei Silos che di certi personaggi che ci siamo ascoltati, non ultimo Tim Hardin, più conosciuto ai tempi più moderni. Chris Cornell era il cantante dei Soundgarden, in realtà lui si chiamava Christopher John Boyle, veniva da Seattle, stato di Washington, e appunto si faceva chiamare Chris Cornell. Fu insieme ai Soundgarden dal 1984 al 1997, poi si sono sciolti temporaneamente dal 2010, sono tornati insieme dal 2010 al 2017, l'anno in cui Cornell pensò benissimo di suicidarsi, un fatto abbastanza increscioso. E nel frattempo, durante il break dal 97 al 2010, Chris Cornell fece Combricola insieme a tre musicisti dei Rage Against the Machine in quella splendida band che si chiamava Audioslave. E bisogna anche non dimenticarsi l'album Temple of the Dog che lui e alcuni dei Pearl Jam assemblarono come tributo a Andrew Wood, che era il cantante dei Mother Love Bone, che guarda caso anche questo morì per overdose alla sola età di 24 anni, scusate. Ha fatto un album live nel corso della sua carriera Chris Cornell, si chiama Songbook ed è stato registrato in varie località e naturalmente in varie serate. Qui siamo al 10 aprile del 2011 in concerto al Keswick Theatre di Glenslide in Pennsylvania. Il brano che ci andiamo a ascoltare è un classico dei Soundgarden, ma molti dei pezzi erano scritti proprio da Chris Cornell. Si chiama Fell on Black Days, Chris Cornell. We'll go back a couple years from there. I don't know how many. I never pay much attention to when anything happens. It's just, it's happening. Who cares when? As long as it happens. Like right now, this is happening. This is amazing. Who cares what year? Come alive. So ever I fall off, you fell on black days, fell on black days. Whomsoever I've cured, I'll set them now. Whomsoever I've cradled, I've put you down. Searchlights, so they say. I can't see it in the night. I'm only faking. When I get it right, when I get it right. 'Cause I fell. Chiedo scusa, odio interrompere le trasmissioni, anzi i pezzi che sto trasmettendo, ma preso dalla transagonistica non mi ero accorto che era così tardi, per cui vi ringrazio per l'ascolto. Città Fujiko Live Club torna mercoledì prossimo. Ciao a tutti da Nevio, Chris Cornell, Fell on Black Days. I don't mind the change, but I fell.